con una gamba ingessata arrancavo furiosamente sulle stampelle. «Ma dove vai? In quello stato? Sei impazzito?» Un amico mi gridò, ma non avevo tempo di rispondergli. Feci appena un cenno distratto. C'era un orologio pubblico. Ebbi una stretta al cuore. Troppa strada ancora da fare. E lei era lì ad aspettarmi. Cominciai a pedalare. Le stampelle avevano messo due ruote, una sgangherata bicicletta, sia pure bicicletta però, ma facevo un'orrenda figura. Un motorino fra le mie gambe cominciò a scoppiettare. Minuscolo, tuttavia funzionava. 20, 22 all'ora, ma sarei arrivato in tempo. Girai la manopola dell'acceleratore. L'Erlin Davidson fece un balzo da leone. No, non bastava ancora. Ora la Mercedes 7000 TS oscillava fra i 170 e i 180. I rettilinei mi inghiottivano ad imbuto. La immensa autostrada si stringeva. Fra poco non ci sarebbe stato più spazio. Mancava poco. Respirai. Mi tenni su, bello dritto, trattenendo con alterigia le redini degli 8 cavalli bianchi. Al sole gli ori del cocchio imperiale scintillavano. La sua via, finalmente la sua casa. A malapena la mia, corazzata da 50.000, riuscì a entrare nel viale. Le bandiere sventolavano, circolazione interrotta, folla incuriosita e allarmata. Venne il sindaco a protestare, ma come vide la potenza della mia nave da guerra, si levò il cilindro con rispetto. Lei alla finestra sorrideva. Diedi un ordine. I cannoni spararono 40 colpi a salve. Le vetrate delle case intorno se ne andarono con un allegro tintinnio. Lei di lassù mi lanciò un fiore.